Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11 e quasi 11, abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre il nostro sommario. Preparare la pelle all'estate. A tavola scegli i colori della salute. Sole artificiale? Parliamone. Ci siamo, o quasi, il sole lì che ci corteggia, la tentazione è forte, è mesi che sogniamo di abbandonarci a lui, ma c'è da fidarsi. Molti si sono scottati ed è un dettaglio che non possiamo certo trascurare, ma è anche vero che capita sempre così in ogni tipo di relazione, quando non si usa la testa e ci si lascia trasportare dalla passione, è facile farne le spese. Rischio che noi non vogliamo correre, che possiamo evitare giocando d'anticipo. 800 24 0024 se volete preparare insieme a noi la vostra pelle al sole. Oggi ci faremo spiegare tutto dai nostri esperti, consigli pratici per ogni tipo di pelle, per ogni problema. Per visi pallidissimi, grigi o olivastri, per chi ha le macchie, per chi ha le rughe, ma anche per chi saggiamente le vuole evitare, chiamateci se il sole lascia il segno sulle labbra o fa fiorire la vostra pelle o se la sua passione vi fa scottare. I messaggi potete inviarceli al 349-238-6666. In studio con me la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa, presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno. Buongiorno. Autrice del libro Tutte ragazze, come affrontare con eleganza il tempo che passa. E c'entra anche il sole. Direi di sì, perché il troppo sole ci fa essere un po' meno ragazze a una certa età, cioè ci dà un bellissimo colore. Qui l'alchimia è quella di riuscire a star bene, a essere un pochino abbronzate per chi si piace abbronzata senza danneggiarsi però. In studio diamo il benvenuto al professor Umberto Borellini, chimico, cosmetologo, docente all'Università di Pavia e di Tor Vergata a Roma. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, anche a lei. Grazie. Allora, dottoressa Serri, la prima domanda da farci nei confronti di questo sole tentatore: ci stiamo o non ci stiamo? In altre parole, bianchi o dorati? Secondo me il sole è fonte di vita, per cui non va visto sempre solo come un nemico. Dobbiamo starci anche perché serve al nostro corpo, serve alle ossa, serve alla sintesi di vitamina D. Ora in America stanno venendo fuori di ritorno delle problemi di carenza di vitamina D, soprattutto in chi è più scuro di pelle e in chi non si espone mai alla luce. Però dobbiamo starci con intelligenza e in base al colore della nostra pelle e a come reagisce la nostra pelle al sole. Professor Borellini, le creme in questo caso aiutano? Sarebbe bello anche che per il cuore ci fosse una protezione da spalmarsi, no? Per evitare scottature, sì, beh, d'amore. In questo caso consiglio di portarsi in vacanza fidanzata e moglie, e penso che sia... ci pensano loro. Ecco, questo. Ci pensano se loro se ad autoeliminarsi. Penso che sia anche invece per gli altri la bellezza di potersi scottare, penso che sia... molto positivo. Molto positivo. Allora, prepariamoci, il primo passo è capire che tipo di pelle abbiamo e il secondo come la nostra pelle reagisce al sole. Ci sono due parole che con cui dobbiamo fare i conti e le leggiamo spesso anche nei quotidiani, cerchiamo di capire che cosa significano. Fenotipo e fototipo, non sempre vanno a braccetto perché sono due cose distinte. Dottoressa Serri, da che cosa iniziamo? Dal fenotipo? Infatti, pensiamo a una persona che ha i capelli scuri e gli occhi scuri, ma che si scotta sempre quando va al sole e dice: ma come? Ecco, quella persona, pur essendo una persona con occhi e capelli scuri, quindi avendo questo fenotipo, che sono le caratteristiche fisiche, ha un fototipo, che è la risposta individuale della pelle al sole, un fototipo basso. Quindi il fototipo va da 1, la pelle che si scotta sempre, fino a 6, la pelle che è sempre abbronzata, quella dei neri, degli africani, e lo si stabilisce in base a come la pelle risponde al sole, cioè a quanta melanina produce. Se produce feomelanina, che è la melanina dei rossi, quella un po' a pois, sì, delle felidi, della crusca, come la, sì, chiamano in Toscana, oppure se la eumelanina, la bella melanina protettiva, quella meravigliosa, quel laboratorio antiossidante che proprio ti protegge bene, e più ce n'è, più sei protetto, quindi più sei scuro, più puoi stare al sole. Quindi diteci se siete biondi o mori, però diteci soprattutto se e come la vostra pelle pelle reagisce al sole. Ad esempio, se vi esponete al sole per la prima volta nella stagione, per mezz'oretta, senza alcune protezioni, come reagisce la vostra pelle? Questa è un'indicazione importante, dottoressa Seri. Invitiamo i nostri ascoltatori a comunicarcela all'800 24 00 24. Dottoressa. Sì, è molto importante, però è molto importante anche sapere a che ora, cioè se è a mezzogiorno quando il sole è allo zenito, se è alle 9 di mattino, perché noi dermatologi consigliamo un'esposizione alla mattina presto e nel tardo pomeriggio, cioè dopo le 4 del pomeriggio. A mezzogiorno il sole è allo zenito, i raggi solari sono più bombardoni, più potenti, e in più dipende anche da dove siamo, a che latitudine siamo, perché da noi il sole è forte a determinate nei mesi estivi, a altre latitudini, per esempio se si va ai tropici, adesso che si viaggia molto, si va ai tropici, il sole è molto intenso in ogni momento dell'anno, per cui diciamo il sole estivo da noi qui in Italia a mezzogiorno. Se stai al sole mezz'ora ti scotti sempre, diventi rosso, non ci puoi neanche pensare, diventi leggermente rosso e poi ti abbronzi subito, diventi un po' rosso e poi tu subito diventi bianco. Sono tutte indicazioni interessanti anche per capire come proteggerci, come magari fare. Poi ho visto che ne parlerà Nicoletta anche con degli esperti proprio su queste tematiche, la fotoprotezione attiva. Come preparare la pelle al sole per riuscire. Ed è tutto quello che vogliamo sapere oggi, ma intanto volevo chiedere al professor Borellini, per le donne che usano fondotinta, creme colorate, eccetera, e adesso c'è comunque il sole anche in città che ci bacia, siamo protetti? Contengono qualche fattore di protezione questi cosmetici? Sì, quasi tutti questi nuovi decorativi hanno anche dei filtri solari. Però io consiglio in queste situazioni pre-estive di applicare il prodotto decorativo sotto la crema idratante che avrà una sua protezione solare. Io direi che ormai è quasi accettato da tutti che una crema definita da giorno debba sempre comunque avere un filtro solare. Ragione maggiore per essere più attenti in queste giornate. 800 24 00 24, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. E la protezione passa anche dalla tavola. La bella stagione ci mette per fortuna a disposizione tanti prodotti che forniscono alla nostra pelle tutto quello che ha bisogno per vivere questo momento, come si dice, alla grande. In linea con noi abbiamo la dottoressa Pucci Romano, dermatologa e vicepresidente Skineco. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno Nicoletta, grazie. Allora, grazie. Dottoressa Romano, noi sappiamo che la tavola in estate diventa particolarmente colorata e i colori ci aiutano a scegliere. Infatti, noi abbiamo, non è un caso che d'estate c'è un rigoglio di ortaggi, verdura, frutta, tutto questo che ha un aiuto per farci abbronzare meglio, e non ci dimentichiamo che l'abbronzatura, che viviamo come un dettaglio di bellezza, è invece il vero fotoprotettore, cioè una volta che la pelle si è abbronzata non viene più danneggiata dai raggi solari. Anche se la protezione deve continuare, vero dottoressa? È consigliabile, però poi è anche vero che, come diceva Riccarda, tutto è legato anche al fototipo. Certo, al fototipo e quindi al buon senso. Allora andiamo, esatto, a tavola, dottoressa Romano. Andiamo a tavola. Che cosa troviamo nella tavola dell'estate? Beh, insomma, la cosa più comune è i carotenoidi, cioè tutto quanto viene come protezione interna dall'alimento giallo, dal colore giallo, quindi la carota va bene, ma i peperoni, la zucca, l'albicocca, il melone, le nespole, il mango, la papaya, sono tutte… Tutto quello che giallo arancione ci piace. Esatto, però c'è anche il verde, il verde è importantissimo, e il verde, se Dio vuole, ce l'abbiamo tutto l'anno, con il prezzemolo per esempio, o il basilico, o la rughetta che è utilizzata tantissimo, sono tutte sostanze, sono tutti alimenti ricchi di carotenoidi che ci preparano alla, e per non parlare del pomodoro, il famoso licopene. Il licopene che sembra diventato addirittura una panacea, ed è vero in effetti, perché c'è addirittura gli studi un concentrato di pomodoro che ha un'azione antiossidante talmente importante da contrastare addirittura il colesterolo. Ecco, a proposito del licopene, lei ha detto un concentrato, è vero che il licopene si assorbe meglio da cotto? Esattamente, quindi salse, brava. Sughi, concentrati. Il vero ragù napoletano. Il vero ragù napoletano. E quindi tutti gridavano orrore, uno stracotto. Io addirittura mi ricordo la conserva di pomodoro che si faceva in casa e che veniva aggiunta al sugo, quindi un vero concentrato di licopene. Ma dottoressa Romano, questi alimenti ci possono salvare dalle scottature o che cosa fanno? Oltre che a muovere, no? E ad arricchire di gusto e sapore la nostra dieta. No, no, per carità, non attribuiamo poteri taumaturgici al cibo. Il cibo fa parte del viver sano, però non può risolvere tutti i problemi, né tantomeno prevenire o curare una scottatura mangiando un pomodoro o un albicocca. Sarebbe bello, no? Sarebbe meraviglioso, ma non è così. Ecco perché la scienza, insieme all'attenzione per le cose che vengono dalla natura e la famosa chimica amica che Schineco tanto predica, si applica anche in questo campo. Dottoressa, facciamo uno schemino di dieta, colazione, pranzo e cena, per inserire tutto quello che, di cui lei ci ha parlato facilmente, senza dover fare le capriole. Perché anche qualche novità, qualche o a parte gli ovvi alimenti. Sì. Allora, colazione, si può aggiungere alla colazione la frutta fresca, ma anche la frutta secca, tipo le albicocche secche sono ricchissime in carotenoidi. Poi possiamo aggiungere al pranzo un bel piatto di pasta al pomodoro condito o anche addirittura cotto con l'olio extravergine, perché sì, una piccola quantità di grasso vegetale esalta il licopene. Magnifico. E andiamo a cena. I legumi, non dimentichiamo i legumi che contengono gli psoraleni, cioè aumentano la capacità di abbronzarci meglio. A cena un po' di mandorle nell'insalata, quindi altra frutta secca e vitamina E, e poi ancora, non so, un'insalatona e del pesce azzurro, il salmone, guarda caso il salmone è rosa giallo, quindi anche lui è ricco. Il salmone è lì che dice guardate il mio colore. Allora, esatto. Dottoressa, per sondare un po' la conoscenza dei nostri ascoltatori riguardo i prodotti da mettere in tavola per aiutare la pelle ad avere i massimi vantaggi senza rischi, ho pensato di fare un piccolo quesito che passo a loro. Secondo voi contiene più beta carotene il prezzemolo o il basilico? Ho pensato a queste due erbe aromatiche perché sono tra quelle più usate nella tradizione mediterranea e costituiscono l'ingrediente fondamentale di salse e condimenti. Pensate ad esempio al pesto, alla genovese, oppure alla salsina verde. Quindi il primo ascoltatore che ci manderà tramite mail a essere benessere@radio24.it la risposta giusta a questo quesito riceverà a casa il libro che è il consiglio di lettura di oggi. Quindi, dottoressa Romano, non dica nulla, in chiusura io la chiamo e lei svelerà la risposta. Grazie. Okay, grazie. Buona giornata. Pronto soccorso. Abbiamo tanti messaggi da leggere, ad esempio ho la pelle chiara, non mi scotto mai, però mi viene l'eritema e mi dura una settimana o più. Dottoressa Serri, professor Borellini, questo è un problema abbastanza diffuso. Allora, viene chiamato spesso eritema solare, in realtà una fotosensibilizzazione, una fotoreazione che si manifesta spesso al décolleté. Sono dei ponfetti pruriginosi. Brutti a vedersi, fastidiosi a tenersi. Per evitarlo bisogna iniziare a mettere preparati a base di sostanze antiradicali liberi, poi Umberto ci può spiegare, beta carotene, vitamina C, proprio come prodotto da sera, gel piuttosto, e anche a base di sostanze che aiutano e stimolano le difese naturali della pelle. Quindi una fotoprotezione attiva iniziando da prima delle esposizioni. E poi è molto utile prendere per bocca delle sostanze non solo antiradicaliche, ma anche degli acidi grassi poliinsaturi e mangiare tanto pesce. Professor Borellini, per chi ha l'eritema, quali sono le etichette da leggere? Certo. Quali sono i consigli che lei ci può dare? Importantissimo verificare in etichetta la tipologia di protezione, quindi verificare la presenza di filtro UVB, perché i raggi UVB sono definiti proprio raggi eritematogeni, quindi andando a guardare bene l'etichetta verificare proprio che ci sia questo tipo di protezione. Inoltre, come mi suggeriva la dottoressa Serri, se c'è la possibilità di questi antiossidanti sicuramente aiutano come prevenzione, penso all'acido alfa lipoico, penso al coenzima Q10 che sono proprio selettivi per questo tipo di... Mirati per la pelle. Sì. Noi parleremo proprio anche degli integratori da assumere per bocca dopo i mercati, ma intanto Plinio che ci chiama da Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, buona giornata. Si sta preparando? Sì, sì, io volevo chiedere una cosa, ho fatto un po' di giardinaggio sabato, sono stato un paio d'ore, forse tre in giardino, e poi ieri anche con la famiglia un paio d'ore, ma stamattina non riesco a aprire gli occhi, mi sto spellando tutto come un serpente. Come un serpentone. Allora, Plinio, ma lei aveva messo qualcosa o era andato così nuda? Niente, anche perché non ero preparato, non pensavo certo. Se si prende dal sole o che cosa. Poi adesso tutto rosso come rosso. Cioè, non mi è mai successo. Plinio, mi dispiace per lei, ma io sono contenta che lei mi abbia chiamato, perché molti di noi fanno le prove generali, no? Magari fanno un po' di giardinaggio, vanno a trovare l'amico che abita fuori città e giustamente si dice, no, tanto è maggio, abbiamo avuto tutta questa stagione di pioggia che abbiamo talmente voglia di sole che uno dirà, ma devo mica proteggermi. Allora, SOS per Plinio e per tutti coloro che in questo fine settimana sono usciti fuori porta e si ritrovano come dei serpentoni oppure delle fragole rossi. Sì, però Plinio secondo me ha avuto una doppia reazione, cioè troppo sole per tutto il giorno, ma anche una specie di fitofotodermatosi dovuta alle piante, ha fatto giardinaggio e secondo me si è innescata anche una reazione allergica alle piante. Quindi Plinio dovrebbe magari, consigliandosi col medico, col farmacista, prendere degli antistaminici, mettere dei preparati lenitivi e mettere un bel cappellone quando va all'aperto. Quando fa fare giardinaggio. Professor Borellini, per chi in questo momento è rosso, scottato, che cosa deve fare? Verso quali prodotti si orienta o se ha anche qualche rimedio della nonna? Noi siamo molto contenti. Ma io sono più per le preparazioni cosmetiche che sono formulate proprio ad hoc piuttosto che le preparazioni domiciliari. Quindi affidarsi. Insomma, la patata non me la fa più mettere. No, si può anche mettere la patata, ma come per quale emergenza? Motivo andare a sbucciare, perdere tempo quando magari uno trova il suo prodotto dopo sole, ricco di molecole lenitive come la calendola, come la malva, come l'altea, che hanno un'azione proprio disinfiammante naturale. Penso all'estratto di liquirizia. Allora, intanto le abbiamo prese calendula, altea, malva e estratto di liquirizia. Queste sono sostanze proprio ad attività lenitiva ed è un'azione che una volta veniva considerata quasi empirica come i consigli della nonna. Oggi con la cromatografia si è visto che queste piante contengono proprio dei derivati diciamo antinfiammatori quasi simili a quelli presenti in farmacopea, per cui non è che le piante... Non è che lo diciamo così, ecco, lo diciamo a ragion veduta, a studio provato. Sono preparazioni standardizzate. Ok, allora abbiamo Martina da Vicenza. Buongiorno, allora la chiamo per questo motivo. Sì. Ho un bambino di quasi 2 anni, biondo con gli occhi azzurri, che sta tutto il giorno fuori, sì, dalle 9 del mattino alle 7 di sera. E lo scorso anno ho preso una crema solare a schermo totale di quelle minerali, in pratica diventava bianco, sembrava un bambino polacco. Sì. E non era un bel effetto, insomma. Sì. E volevo sapere quest'anno se posso prendere una crema più fluida, magari sì, sempre una protezione totale, e quante volte al giorno le devo mettere. Allora, grazie Martina. Andiamo sui bambini, dottoressa Serri. Sarebbe meglio evitare, anzi tassativamente, da evitare le ore più calde della giornata. Esatto, quindi che stia al sole. Un conto è stare all'aperto dalla mattina alla sera. Spero all'aperto, non al sole. Perché in certi orari, soprattutto tra le 11:30 e le 3:30, un bambino dovrebbe stare all'ombra, va benissimo all'aperto. Fatta questa precisazione. Fatta questa precisazione, i prodotti solari non fa niente. Io trascurerei un attimo il lato estetico, vanno benissimo i solari con schermi fisici, anche se sono un pochino bianchi, per un bimbo così piccolo, perché sono proprio più indicati per i bambini. Vanno applicati circa, a seconda di se fa il bagno, se gioca e suda, se fa il bagno in mare o in piscina, ogni 2-3 ore. Professor Borellini, ci aiuta a capire, la dottoressa Serri ha detto schermi fisici, e poi ho un'altra domanda. Nel caso, se uno non avesse a disposizione un prodotto specifico per i bambini, si possono utilizzare le creme anche ad alta protezione per gli adulti sui bambini così piccoli, o è vietato? No, non è vietato, è chiaro, certo, che queste formulazioni per bambini sono più specifiche. Sono più specifiche, senza profumazione, quindi studiate per provocare meno allergia, quindi sicuramente sono più mirate. Per quanto riguarda questa patina bianca, è normalissima, perché la molecola utilizzata si chiama ossido di zinco ed è proprio una polvere bianca, quindi quello che posso suggerire alla consumatrice di verificare la presenza di prodotti che utilizzano questa polvere micronizzata. Quindi ci sono delle formulazioni abbastanza recenti in cui questo effetto così biancastro è meno evidente, però comunque, ripeto, queste sostanze sono totalmente innocue proprio perché rimangono in superficie, creano uno schermo, una sorta di barrierina. Ti tengo a sottolineare, sì, che micronizzato non vuol dire nanoparticellizzato, ecco perché c'è una grossa confusione. Diamo bene le due definizioni rapide. Micronizzato vuol dire che la polvere è molto fine. Nanoparticellizzato vuol dire che la polvere è addirittura resa in nanoparticelle che penetrano attraverso gli strati della pelle. Questa non ci piace. Al 349-238-6666 abbiamo indovinato la puntata insieme a Laura Vanossi, perché arrivano tantissimi messaggi di ascoltatori che mi scrivono: mi sono scottato proprio ieri, mi sto spellando il naso. Segno che in fondo forse noi non ci rendiamo conto che il sole di maggio è un sole che non ha nulla a che invidiare con quello di agosto, quindi no, occorre non sottovalutarlo. In linea con noi abbiamo il dottor Giovanni Leone, responsabile del servizio di fototerapia dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Buongiorno, dottore, professore. Allora, il sole di maggio, attenzione, possiamo fare i grandi preparativi per l'estate, ma insomma dobbiamo considerare che è vero che abbronza, ma è vero anche che scotta, è così? Esattamente, normalmente la gente associa l'intensità dei raggi ultravioletti al calore, per cui si pensa che agosto c'è un sole fortissimo. In realtà si raggiunge il massimo dell'intensità il 21 giugno, il solstizio d'estate, per cui direi che adesso il sole sicuramente è più forte che a Ferragosto, quindi bisogna stare molto attenti perché stiamo in crescendo. Professore, voglio parlare con lei degli integratori alimentari, quelli che noi che non siamo addetti ai lavori chiamiamo le pillole abbronzanti, e c'è un po' di confusione riguardo al loro utilizzo, al loro ruolo. C'è chi crede che facciano abbronzare prima, chi crede invece che regalino un'abbronzatura più intensa e duratura, chi invece li considera un po' un'alternativa per introdurre quelle sostanze che a volte non si riescono ad assumere nelle giuste quantità con la dieta. Ci spiega allora cosa sono e cosa è giusto aspettarsi da queste pillole, da questi integratori? Sì, in realtà la definizione pillole abbronzanti è un po' fuorviante, perché lo scopo, almeno di noi medici prescrivendole, non è quello di far abbronzare rapidamente e meglio, ma è quello di fornire una protezione supplementare, complementare alle creme. E infatti si parla di fotoprotezione attiva, è giusto? Sì, fotoprotezione attiva e fotoprotezione sistemica, quindi queste sono sostanze soprattutto a base di antiossidanti che esercitano un'azione protettiva sulla cellula, sugli acidi nucleici, contro i radicali liberi che si sviluppano in seguito all'esposizione agli ultravioletti. Queste sostanze sono per lo più rappresentate da antiossidanti naturali, carotenoidi, per esempio molto attivo il licopene della famiglia dei caroteni, che è anche più attivo del beta carotene. Vengono aggiunti anche i probiotici, che esercitano un effetto immunomodulatore, vitamina E, vitamina C, altri antiossidanti molto nuovi, tipo il resveratrolo, che deriva dall'acino di uva. Insomma, un'azione antiossidante globale che protegge la cellula nei confronti dei raggi ultravioletti. Eventuali controindicazioni, ci sono persone che ebbene non li utilizzino, oppure devono comunque parlarne con il proprio medico? Assolutamente controindicazioni in senso stretto no. È bene parlarne col medico, anzi soprattutto con lo specialista, perché non ci devono far sentire sicuri al 100% e quindi non dobbiamo eccedere con le esposizioni, però le possono usare tutti tranquillamente questi prodotti. Dottoressa Serri, da quando si possono iniziare a usare? C'è un tempo? Da quando ho iniziato, in genere si iniziano 20-30 giorni prima dell'esposizione. Io è dal 1 maggio che mi prendo i miei integratori di Polypodium Leucotomas e Resveratrolo. Che nomi difficili, voi siete fortunati, perché li pronunciate con estrema disinvoltura, sì, no? Che sembrano un po' vermi anche, cosa ha detto? Sì, Polypodium. Io all'inizio, Polypodium, Leucotomas, pensavo fosse anch'io una specie di animaletto, invece è un'alga, un'erba. Professor Borellini, vuole aggiungere qualcosa? No, volevo dire che io ho iniziato il 25 aprile. Lei ha iniziato il 25 aprile, il professor Leone? Io quasi tutto l'anno perché viaggio. Ecco, quello che dobbiamo sottolineare è che questi integratori non devono però farci sentire troppo sicuri di noi, della nostra pelle, perché comunque la protezione, intesa come crema da spalmare con una certa frequenza, del tipo giusto per la nostra pelle, per il nostro fototipo, va sempre messa. Professor Leone, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Noi andiamo a Marina che ci chiama da Brescia. Buongiorno Marina. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Il mio problema è questo: ho una pelle chiara, però non mi sconto, anche perché se mi espongo a sole lo faccio insomma con ragione. Però il corpo si abbronza senza problemi. Da qualche anno invece il mio viso rimane pallido, cioè prende un leggero colore ma non si abbronza come il resto del corpo. È possibile che io abbia esaurito la melanina del viso? Ma bella domanda, dottoressa Serri. No, la melanina effettivamente non si esaurisce, però non dovunque viene prodotta nella stessa maniera e nella stessa quantità. Evidentemente sul suo viso si è un po' i melanociti della cute del viso della signora si sono un pochino impigriti e producono meno melanina. Professor Borellini, se io consigliassi a Marina di mettere un auto abbronzante sul viso proprio per non fare, no, i due colori. Certo, gli auto abbronzanti. Farei una buona cosa? Ma gli auto abbronzanti sono un po' dei trucchetti scenografici, nel senso che sono molecole che aiutano a pigmentare, a colorare la pelle, non hanno niente a che vedere con produzione di melanina, per cui sono innanzitutto innocui. Quelle formulazioni odierne danno una colorazione ambrata molto belle, qualche anno fa davano una colorazione giallognola, quindi sicuramente può essere un metodo alternativo interessante per apparire bene, ricordandosi però che non è melanina, quindi ecco, di non andare a sole illudendosi di essere abbronzati. Ma io posso mettere il solare e l'autoabbronzante? Certo, perché l'autoabbronzante è proprio un meccanismo superficiale, è una reazione chimica che avviene tra questa molecola particolare che si chiama diidrossiacetone e la cheratina della pelle. Questa reazione chimica porta allo sviluppo di una colorazione nuova. Ma io metto prima la crema e poi l'autoabbronzante o viceversa? Io non so mai la sequenza. Non è proprio importante. Direi che forse, non lo so, cosa faresti tu? Posso dire cosa ho fatto questa mattina? Ecco. Sì, ma dopo ho messo però la crema, non dica nulla. L'autoabbronzante. Ormai l'ha già detto, quindi crema e poi autoabbronzante. Però perché era una crema idratante. Ma anche se si tratta di solare, secondo me si può mettere alla mattina un idratante, l'autoabbronzante, poi magari si aspettano 20 minuti e poi si applica il prodotto solare. L'autoabbronzante però bisogna stare attenti solo a un effetto collaterale, il punto nero. Il fatto è che l'autoabbronzante, come spiegava prima il mio amico Umberto, tinge gli strati superficiali della pelle, quindi tinge anche la cheratina che è contenuta negli osti follicolari, cioè nei buchini della pelle, quindi allora, punti neri si evidenziano, i punti neri diventano più neri. Come fare? Secondo me la cosa migliore è fare uno scrub, oppure ancora meglio lavarsi, e so che anche la dottoressa Romano lo usa con molta gioia e efficacia, col famoso pannetto di microfibra che si compra in farmacia anche. Adesso è distribuito anche in Italia, finalmente, prima lo ordinavo in Australia una volta. Comunque è molto utile, perché non è irritante, se no lavarsi bene facendo un piccolo scrub anche al limite col bicarbonato. Poi sto notando negli ultimi tempi delle belle gambe dorate, e poi invece ci sono le braccia bianchissime. Lì si vede che l'autoabbronzante è stato dato solamente. Ma c'è anche il fondotinta da gambe, l'avevo preso. Quindi bisogna comunque, secondo me, darsi un po' un velo uniforme, perché il braccio bianchissimo e la gamba nera forse stona. Allora meglio tutti bianchi. Allora io ho in linea con noi il professor Monfreco, l'ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli, che ho invitato a partecipare a questa trasmissione. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, dottoressa. Allora, io vorrei che lei ci aiutasse a capire che cosa non dobbiamo metterci quando ci esponiamo al sole. Facciamo un elenco dei prodotti e delle sostanze che proprio col sole non vanno d'accordo. Allora, oltre a non applicare, anche non assumere, direi, ci sono alcuni farmaci, per esempio in pillole, sciroppi, iniezioni, e sono farmaci di uso piuttosto comune. Parlo di antibatterici, di tranquillanti, di antidiabetici, anche di diuretici, però ecco, qui senza fare elenchi non facilmente memorizzabili da radioascoltatori, diciamo il consiglio qual è: se ci si deve esporre al sole e si stanno assumendo farmaci, chiedere al medico curante se sono fotosensibilizzanti. Ecco, perché oppure questo rischio il bugiardino, c'è. Cosiddetto, no? E vedere se c'è scritto che può provocare fotosensibilità. In questo caso evitare soprattutto intense, prolungate esposizioni al sole. Però un punto lo vorrei sottolineare qui con molta decisione, è evitare soprattutto applicazioni di gel o creme antinfiammatorie o antistaminiche. Faccio un esempio: sono quelle per le distorsioni, sì, o quelle per le punture d'insetto di larghissimo uso. Ebbene, d'estate è preferibile che questi gel o queste creme non vengano applicate se poi ci si espone al sole. C'è il rischio di gravi reazioni con rossore, gonfiore e bolle, e quindi la sensibilità al sole può permanere a volte anche per settimane o mesi. Quindi per piacere non applicate questo tipo di prodotti se si fa poi al sole. Professore, posso aggiungere il profumo? Perché anche il profumo macchia, no? Con l'idea, per molti di noi profumarsi è un'abitudine quotidiana, un gesto automatico che però, se decidiamo di esporci al sole, dovremmo evitare, perché pena una macchia. Sì, la sua puntualizzazione è molto importante, anche se non accade sempre, diciamo, però alcune sostanze, essenze vegetali profumate o anche alcuni cosmetici di derivazione vegetale, possono generare reazioni di sensibilità alla luce, e questo genera poi a sua volta a valle una serie di macchie scure. Ci sono prodotti vegetali di largo uso che possono dare questo, e intendiamoci, non è che ci si applica qualcosa di profumato, ecco, e si va al sole, necessariamente la cute resterà macchiata. Però dipende dal tipo di pelle, certo, dipende dalla genetica, dalla sostanza e quant'altro. Allora il consiglio resta comunque: se andate al sole è preferibile andarci con la pelle quanto più detersa possibile, senza applicazione di cosmetici profumati. Professore, io vorrei aprire una breve parentesi, l'apriamo e la chiudiamo, con indicazioni mirate sul sole artificiale, le lampade. Ai dermatologi non piacciono, c'è stato l'allarme, però la voglia di un po' di colore fa passare in secondo piano le raccomandazioni dei medici. Qualche lampada, insomma, volenti o nolenti, qualcuno cede. Allora, professore, le cose da sapere per soddisfare la voglia di colore senza rischiare poi danni alla pelle. Ecco, qui diciamo dobbiamo essere un tantino realisti e evitare che si oscilli dal terrorismo all'inerzia totale. Io direi che la proposta dovrebbe essere razionale, come dire, ragionevole, pacata. In altre parole, noi dovremmo evitare eccessi ed errori che possono compromettere non solo la salute delle persone, ma anche i legittimi interessi di chi ha delle attività imprenditoriali in questo senso, sì, e che a volte per un eccesso o un errore si trova, come dire, criminalizzato per la propria attività. Allora, la proposta quale potrebbe essere? Che ci si sieda senza pregiudizi intorno a un tavolo: chi dermatologi, associazioni dei consumatori, rappresentanti dei gestori di centri abbronzanti o estetici e produttori di lampade. Si trova un accordo che porti alla regolamentazione di pochissimi punti: chi può e chi non deve fare le lampade. Ecco, nell'attesa di questo tavolo, chi non deve fare le lampade, professore? Guardi, non le deve fare assolutamente, chi è di fototipo chiaro, ovviamente parliamo sempre dei rossi con i felidi, persone che subiscono scottature molto facilmente, persone che hanno già avuto problemi di pelle o persone che stanno assumendo farmaci per esempio. Ecco, problemi di pelle intendo alcune malattie con fotosensibilità o addirittura tumori della pelle. Ecco, queste persone andrebbero proprio assolutamente escluse da questo tipo di trattamento, anche chi prende i farmaci ovviamente. E poi ancora, quando anche chi può non deve fare le lampade. Ancora una volta, chi assume o applica delle cose. E infine, norme basilari di sicurezza per evitare eccessi e errori. Allora, un minimo di corso, basterebbe anche una giornata, è una sorta di attributo. Insomma, lanciamo, qua abbiamo anche la dottoressa Serri, il professor Borellini, lanciamo questo appello, mettetevi intorno ad un tavolo e salvate la pelle, dottoressa Serri. Sì, anche perché si rischia sempre, come diceva giustamente il professor Monfreccola, di far di tutt'erba un fascio. Ci sono dei centri seri, ho visto dei centri serissimi dove chiedono, fanno delle domande e escludono dal lettino abbronzante determinati individui e anche ragazzini troppo giovani. Ecco, e altri centri invece in mandano tutti. Una domanda, in alcuni se uno dovesse fare in centro, insomma, una lampada, la crema si mette o non si mette? Questa è una bella domanda. Professor Borellini, lei la metterebbe? Diciamo che in teoria, essendo lampade in cui l'UVB non è concepito, non dovrebbero essere applicate. Allora, perde lo scopo della... Abbiamo 30 secondi. Salutiamo il professor Monfreccola. Grazie professore per essere stato con noi. Buongiorno. Uso questo saluto per dare il ribenvenuto alla dottoressa Pucci Romano, a cui chiedo qual era il risultato della nostra domanda. Prezzemolo o basilico? Quale delle due erbe contiene più beta carotene, dottoressa Romano? Prezzemolo. Grazie dottoressa Romano. Allora, la prima ascoltatrice che ha inviato la risposta giusta è la signora Maria Grazia Storri, che ha mandato un'email a esserebenessere@radio24.it. Consiglio di lettura? Maria Grazia riceve a casa il libro La pelle, specchio delle emozioni, inchiesta sul più sconosciuto tra gli organi del corpo umano, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop. In collaborazione con IBS.it. Un saluto veloce ringraziandoli alla dottoressa Serri e al professor Borellini che sono stati con noi. Se avete ancora delle domande, esserebenessere@radio24.it. Buona giornata, buona protezione della pelle al sole. Un saluto. Radio 24. La passione si sente.